La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori da Oscar Giannino, benvenuti alla versione di Oscar, 16:34 primi 27 secondi, grazie anche a chi ci ascolta in posca, ricordo sempre il numero verde 800240024 per gli sms, lo sapete se ascoltate Radio 24, 349-238-6666. Venerdì ci siamo lasciati con la crisi e questa... confronto iniziato per affrontarlo del settore dell'automotive, componentistica e auto. Abbiamo visto quanto si è abbattuto il mercato, siamo tornati ai livelli del 1958 in Italia. Oggi ci occupiamo di un altro comparto, perché partiamo anche qui da una notizia di questi giorni: nuovi esuberi del gruppo Electrolux in Italia. Quindi parliamo della crisi del settore cosiddetto bianco degli elettrodomestici e questa nuova vertenza dei 200 esuberi nel gruppo Electrolux, un gruppo svedese, in Italia, si aggiunge a una lunghissima serie di ristrutturazioni ed esuberi non solo nel settore ma da parte dello stesso gruppo. Pensate che Electrolux 20 anni fa aveva 16 stabilimenti in Italia e quindi era un gruppo molto forte, molto presente, aveva 20.000 quasi lavoratori. Oggi siamo a 4 stabilimenti con 4.500 lavoratori. Questi 4 stabilimenti sono: uno a Forlì, forni di cottura; uno a Porcia, in provincia di Pordenone, lavatrici; uno a Solaro, in provincia di Milano, lavastoviglie; uno a Susegana, Treviso, frigoriferi. E già dall'inizio dell'anno, in due tranche, l'azienda aveva fatto presente, prima di avere del tutto ancora gestito e assorbito i 636 esuberi che ci si tirava dietro da un anno e mezzo, aveva preannunciato di altre diverse centinaia. Adesso siamo a 200 e c'è una vertenza, gli incontri aperti. E in tutto questo noi prendiamo anche l'occasione per salutare uno dei nostri ascoltatori che ci ha scritto proprio. Si chiama Antonio Del Genio, è un operaio dell'Electrolux di Porcia e dopo anni in cui ha visto i volumi produttivi e gli orari di lavoro, perché sono già in cassa integrazione, diminuire, ovviamente molto preoccupato. Per darvi un'idea della caduta di un settore che è il settore, non dimenticatelo, che nella manifattura italiana ha quello con una delle più elevate percentuali di ricerca e sviluppo, perché il settore degli elettrodomestici può reggere alla concorrenza dei grandi colossi mondiali come la Cina, che è diventata leader nel mercato mondiale, solo se sta nella parte alta del valore aggiunto, quindi molta tecnologia, molta domotica e così via, perché nella parte bassa ovviamente Cina, Corea e simili non sono affrontabili sui soli costi. Però pensate che questo settore in questi 5 anni di crisi è sceso da 18 miliardi e mezzo di fatturato a circa 15 miliardi e mezzo di fatturato, e c'è un numero che colpisce molto, il numero è di quanto si è abbassata negli ultimi 10 anni la produzione di pezzi e di elettrodomestici in tutta la filiera, quindi stiamo parlando dai frigoriferi alle lavastoviglie agli elettrodomestici leggeri. Beh, pensate che nel 2002 si producevano 30 milioni di pezzi in Italia, nel 2012 siamo a 15 milioni di pezzi, con intere filiere tipo i frigoriferi che si sono ridotte a meno di un quinto, perché li si è delocalizzati fortissimamente soprattutto nell'Europa dell'Est. Allora, di fronte alla crisi di Electrolux, ma ripeto, qui questa è una filiera interessata da fortissimi problemi, avrete sentito parlare delle vertenze Merloni, Indesit, Candy e così via, abbiamo deciso di capire oggi con come abbiamo fatto venerdì, con il presidente del comparto industriale del bianco, che è con noi, si chiama Franco Secchi. Io lo ringrazio di essere con noi, buon pomeriggio. Buonasera a lei. Per capire, è un andamento che concentra in Italia problemi aggiuntivi? È un problema analogo a tutti gli altri paesi europei? Che cosa è stato fatto e che cosa si può fare? Perché lei in questi mesi ha tentato di dire la politica ci deve dare alcune attenzioni costanti. C'è un problema di direttive europee, per esempio, per lo smaltimento degli elettrodomestici e incentivare la sostituzione rispetto ai italiani che hanno un basso reddito disponibile. La fotografia rispetto non solo alla vicenda Electrolux, ma all'intero comparto, la vede pessimista anche quest'anno? C'è qualche segno? La politica dà qualche segno? Che dice? Parlare del passato non vorrei, perché il passato è stato glorioso per il nostro comparto. Eravamo davvero forse il paese che produceva più elettrodomestici in Europa, ma è un passato che non torna più. Per noi oggi è diventato fondamentale difendere l'esistente. Difendere l'esistente come? Soprattutto con il sostegno all'innovazione. Mi preme però dire anche un'altra cosa. Spesso si parla delle nostre realtà quando le fabbriche sono in crisi, ma le nostre aziende non sono solamente siti produttivi, fabbriche. Credo che sia fondamentale sottolineare anche tutte le nostre organizzazioni di governo e di competenza, pensi alla ricerca e allo sviluppo, al marketing, alla logistica, ai servizi post vendita. Quando noi diciamo che occorre agire tempestivamente è per mantenere e consolidare anche questi presidi, perché anche questi servizi danno lavoro a migliaia di persone. Per essere chiari e per dare un altro dato a chi ci ascolta, di quei 15 miliardi e mezzo, quasi 10 miliardi vanno in export. L'Italia comunque è più del 6% del mercato mondiale. L'Italia dà un contributo importante alla bilancia commerciale del paese. Per anni, come le dicevo, il nostro settore è stato strategico, noi crediamo che debba essere ancora considerato strategico e per questo investiamo, nei pensi, 350 milioni all'anno per l'innovazione di prodotti e processo. Ecco, questi investimenti sono quasi interamente autofinanziati dai produttori. Allora, uno dei fattori che sicuramente colpisce di più il nostro mercato di produzione rispetto anche agli altri europei, ho parlato delle delocalizzazioni obbligate per le aziende, soprattutto per multinazionali nell'Europa dell'Est, è sicuramente quella componente costo dell'energia, che è molto più rilevante, lo sappiamo, rispetto alla concorrente nello stesso settore tedesca o francese. I francesi hanno il nucleare, ma nel caso dei tedeschi, che pure stanno andando a un massiccio piano di energie rinnovabili, anche qua siamo comunque con un 30% aggiuntivo. Su questo cosa si può fare? Noi intanto, lei sa benissimo che Confindustria stiamo lavorando a un progetto Confindustria per l'Italia dove si parla in generale del costo del lavoro, del costo dell'energia eccetera, ma questo riguarda in generale. Tornando al particolare, noi dobbiamo dire che la competizione è diventata globale in tutti i mercati, chiaramente anche il nostro. Il problema è che in Italia le produzioni a basso valore aggiunto non sono più competitive, sia per il costo del lavoro che per il costo dell'energia. Allora, quello che noi dobbiamo fare è lavorare subito per preservare le produzioni di modelli ad alta innovazione e contenuto tecnologico. Se abbiamo perduto le produzioni enterprise economiche, quello che dobbiamo fare invece è lavorare sulle produzioni ad alto valore aggiunto, che in qualche modo riescono nei mercati ad essere vendute a un prezzo più elevato e possono queste produzioni essere fatte anche in paesi come l'Italia dove il costo del lavoro e del processo è più alto. Quando si tratta di multinazionali, perché è ovvio che il consolidamento in un mercato dove la competizione è globale ha bisogno di una taglia di investimenti, di fatturato eccetera eccetera, e quindi per questo poi ci sono giganti come Whirlpool, come Electrolux e così via. In questo caso la carta per dire non teniamo in Italia solo, per così dire, la ricerca, perché molti hanno importanti centri di ricerca, anche Electrolux in Italia, ma teniamo anche un po' di produzione, laddove poi sulla produzione impatta proprio il costo dell'energia e il costo del lavoro. Ecco, come si fa a gestire queste partite? Perché per esempio queste notifiche dall'inizio dell'anno e anche di oggi di Electrolux dipendono dal fatto che loro hanno un disegno di riallocazione europea di fronte alla diminuzione dei margini per come sta andando il mercato europeo e del Medio Oriente, e dicono cari signori, però voi costate di più. Allora in quel caso come si incide? Non solo sulla ricerca e sull'alto valore aggiunto, ma sui siti produttivi. Allora io vorrei contestualizzare meglio la cosa. Con i nuovi concorrenti asiatici e turchi produrre in Italia è diventato davvero difficile. Basti pensare che un'ora di lavoro in Turchia viene pagata 6 euro, in Italia lo stesso ora costa 24 euro. C'è una crisi economica internazionale che lei conosce molto bene e la domanda dei nostri elettrodomestici in Europa si è ridotta del 5% negli ultimi 5 anni. Pensi che in Italia questo 5% è addirittura diventato 25%, quindi abbiamo perso un quarto del mercato in 5 anni. Nonostante questo dobbiamo dire che c'è un altro fattore determinante che è la caduta del prezzo. Il costo medio di un elettrodomestico di oggi è molto inferiore rispetto a quello di qualche anno fa, nonostante l'elettrodomestico di oggi è più performante, più ecologico, e ha un design ancora più accattivante, quindi abbiamo una qualità che è migliorata nel tempo con un costo medio che si sta abbassando, un prezzo medio nel mercato. Allora quando io prima le dicevo che cosa dobbiamo noi tentare come Confindustria, quello che stiamo facendo come Confindustria? Sostenere l'innovazione per difendere l'esistente significa in qualche modo investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo per continuare a produrre in Italia elettrodomestici di medio-alto di gamma. Non possiamo competere con le produzioni economiche, ma non dobbiamo perdere quelle di medio-alto di gamma. Se perdiamo quelle, davvero poi tutto è in discussione, è proprio in discussione il settore completo dell'elettrodomestico in Italia. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:46 e 4 secondi di questo lunedì 28 di ottobre. Siamo partiti dal caso dei nuovi annunci di Electrolux di ridimensionamenti per fare una riflessione sulla crisi del bianco degli elettrodomestici in Italia. E Antonio, operaio dell'Electrolux di Porcia, proprio ci scrive e dice: beh, certo, fa impressione, perché a oggi sono poco più di 600 i lavoratori che a vario titolo hanno già accettato nel corso degli ultimi 5 anni la riduzione, la messa in mobilità, e quindi la fabbrica 10 anni fa occupava il doppio della forza lavoro. Oggi sono circa 1300 addetti in servizio tra operai e impiegati. Naturalmente tutti quelli che erano a termine non sono stati rinnovati, e questo si aggiunge a altre crisi del manifatturiero nella provincia di Pordenone, come quella dell'Ideal Standard. A questo proposito, dalla regione Friuli Venezia Giulia ci pregano di informare il vicepresidente Sergio Bolzonello che il Friuli Venezia Giulia intende essere parte del tavolo a livello nazionale, perché il livello di guardia, per così dire, del ridimensionamento delle crisi manifatturiere è considerato dalla regione oramai troppo forte. La domanda che voglio fare a Franco Secchi è questa: stare nell'alto di gamma significa conquistarsi, poiché la compressione dei redditi nel nostro mercato ci ha fatto le cifre di quanto è sceso quello italiano, ma complessivamente anche quello europeo è sceso, significa dover concorrere con produzioni italiane ad alto valore aggiunto, ma per mercati che sono poi molto molto molto lontani. Da questo punto di vista, la taglia per reti commerciali, di distribuzione e così via, nel mondo che vede milioni e milioni di nuovi affluenti, cioè nell'Estasia, in Cina e così via, da questo punto di vista come è messo il settore che produce in Italia? Come le dicevo, se noi continuiamo a investire nell'innovazione, e dell'innovazione facciamo il fattore chiave per lo sviluppo del settore e proprio la continuità del comparto in Italia, allora l'innovazione significa, però è una bella parola, ma in realtà va però sostenuta, prodotta e venduta. Allora che cosa chiediamo noi? Noi pensiamo che sia importante sostenere, come le dicevo, la ricerca e lo sviluppo. Dovremo in qualche modo sostenere gli investimenti in efficienza produttiva per continuare ad essere competitivi, e dobbiamo sostenere il valore aggiunto di prodotto. Se noi facciamo tutto quanto questo qui, noi potremo davvero competere nell'alto di gamma con tutti i mercati, in tutti i paesi, in tutti i mercati. Se anche l'innovazione invece diventa un bello slogan, ma non ci crediamo e non ci investiamo, e non solo come produttori, ma diventa veramente una nuova politica industriale per l'Italia, allora, come le dicevo prima, è un settore fortemente in crisi che, come ha detto lei, ha perduto il 50% del volume negli ultimi 10 anni, ma che potrà perdere molto più brevemente l'altro 50% parte dei volumi. Allora, come Confindustria, che cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando alla stesura di un documento che sarà presentato nei prossimi mesi al governo. In questo documento noi vogliamo definire qual è la nuova politica industriale in Italia, chiaramente per il nostro comparto, e vorremmo tracciare le linee guida dei possibili percorsi di sviluppo, indirizzando sia gli investimenti che le azioni necessarie. Questo documento non sarà fino a sé stante, quindi fino a se stesso, ma chiaramente vorremmo presentare poi questo documento al governo per ottenere il giusto supporto e per poi veramente metterlo in pratica. Allora, io ringrazio il presidente di CeGeT Italia, Franco Secchi, CeCed, perdonate stamattina la mia lingua, oggi pomeriggio incespica, e vedremo naturalmente la preoccupazione di migliaia e migliaia di lavoratori di questo settore, sono più di 60.000 ancora in Italia, è molto molto forte. E come capirete, qui sostenere l'innovazione all'alto valore aggiunto non è un problema che si risolve con, semplicemente con gli ammortizzatori sociali. Abbiamo con noi Maurizio Castro. Maurizio Castro è stato per anni un alto dirigente proprio del gruppo Electrolux e quindi ha visto, per così dire, senza avere responsabilità, ma insomma aveva responsabilità nelle aziende mentre l'azienda si ridimensionava molto in Italia. Oggi è commissario straordinario, tra l'altro, di una specie di costola esterna che un tempo faceva parte anche del gruppo dell'arcipelago Zanussi in Italia, è commissario in un'azienda che si chiama ACC, e quindi nel salutarlo e ringraziarlo per essere con noi gli chiedo innanzitutto la testimonianza di questo ridimensionamento. È ineluttabile? Si può fare qualcosa? Che dice dei nuovi esuberi annunciati? Ma credo che si possa contemporaneamente dire che è già stata assorbita la quota fisiologica di organico che era dedicato al presidio del basso di gamma e che quindi in qualche misura ineluttabilmente era destinato a perdere ragione e radicamento per effetto delle trattazioni delle produzioni nei paesi a più basso costo del lavoro per le fasce, come dire, comodizzate. Quindi lei dice il timore che in realtà Electrolux se ne vada dai quattro stabilimenti italiani è forse eccessivo? Io sono convinto che se mettiamo in piedi un negoziato complessivamente condotto e condotto bene da governo, sindacati, sistemi di rappresentanza, possiamo convincere Electrolux a rivedere la sua decisione. La dico con molta ruvidezza. Da un lato negoziando direttamente con la famiglia Wallenberg, che è in Italia da oltre 50 anni e con insediamenti importanti nella farmaceutica, nella telefonia, ecco, lei evoca una maniera di fare, per così dire, sistema, come si suol dire, ecco. Assolutamente sì, i Wallenberg amano l'Italia, nella quale hanno fatto investimenti importanti e gestendoli con autonomia e rispetto straordinario. Storia lunga, amici degli Agnelli e così via. KF e quant'altro. Quindi secondo me se si fa, era la stessa operazione che aveva avuto in mente Bersani nel 96 in una crisi analoga, di fare uno scambio tra l'ingresso della famiglia Wallenberg con la sua Ericsson nel comparto della telefonia italiana da privatizzare in cambio di una sorta di rinazionalizzazione dell'elettrodomestico. Operazione ambiziosa ma le cui logiche sono tutt'altro che centriche rispetto anche ai problemi di oggi. Quindi quella è la prima strada che va perseguita. È chiaro che hai fatto qualcosa per rinnovare un settore che è anche contrassegnato da una terribile stasi di progettazioni e di ideazione. Oggi il frigorifero è ancora un armadio che fa freddo come era negli anni 60. Quindi ammettiamolo che c'è un problema di ritardo di investimenti e innovazioni. Lei se lo ricorda il frigorifero Fiat degli anni 60, esatto. Quello con i bordi arrotondati, bombato, come no? Di quegli anni, ecco. 500 è un'altra cosa, ma non solo tecnologicamente, in termini di esperienza esistenziale, di acquisto, di guida, di fruizione. Il frigorifero è rimasto quella roba lì, quell'armadio che fa freddo, che lei ricorda posizionato 50 anni fa. Quindi non basta investire in qualità tecnologica e della prestazione, occorre investire in termini di percezione del prodotto da parte del consumatore. Qui l'elettrodomestico è molto molto molto indietro e si può fare bene. Serve anche un balzo in avanti di competitività. Però naturalmente, mi perdoni se le dico, in realtà Susegana, uno di questi quattro stabilimenti, dall'anno prossimo perde proprio, per così dire, la linea produttiva che è quella del frigorifero più sofisticato del produzione del gruppo, perché lì a quel punto a parità di condizioni. Questo mi sembra naturale, cioè che Susegana sia condannata a fare il basso di gamma per conto di Ikea e non possa invece presidiare i segmenti premium del mercato quando ha una tradizione in questo senso mi sembra. Quindi lei dice è lì che forse anche un po' la politica, senza sconfinare nel rispetto dell'impresa privata, potrebbe farsi sentire con la proprietà. Ma certamente sì. Teniamo presente che se cade l'elettrodomestico, cade una tra le grandi competenze distintive dell'industria italiana, cioè il rischio di un declino brusco, precipitoso, irreversibile. Più di questo. Si fa incombente, cioè elettrodomestico vuol dire Zanussi, vuol dire Zoppas, vuol dire Borghi, vuol dire Merloni. Senta, a me interessa sottolineare una cosa, che della costola di cui lei si occupa come commissario c'è stata una mobilitazione di capitali dal territorio, dal mercato finanziario per darle vita. Sì, è una bella storia, nel senso che noi abbiamo trovato un'azienda in 10 anni devastata dai fondi privati di investimento, che senza alcuna cultura industriale l'hanno veramente spolpata. E adesso? Adesso era senza volumi produttivi, abbiamo recuperato il rapporto di fiducia con i clienti, ci danno 4 milioni da fare di compressori, le banche nicchiano, sono un po' riluttanti, recalcitranti, si è mosso il sistema comunitario, gli industriali lo hanno guidato con la loro associazione, grande sottoscrizione popolare, obiettivo 700.000 euro, la rimano al commissario straordinario per fare investimenti. Va bene, io la devo ringraziare anche per la bella storia, non solo tutto è crisi, ma capirete che qui ci vuole anche un po' talvolta di pugno, sia pure col guanto di velluto intorno, con le proprietà delle multinazionali, nel rispetto delle imprese, ma anche capendo che se la politica non esiste mai, è ovvio che loro vanno altrove, non solo per i nostri alti costi. A domani e grazie, rimanete su Radio 24.